This is a fucking fucking song trash. Like your fucking TV, where everybody cheating like all people in the world, yeah? You are one of like that. I got a thousand and thousand of paper on my lyric right, yeah? Paint thousand man. Maybe in 360 demand. LR. These are fucking false verse songs. It's made with user false verse songs. In these songs I tell you nothing. To explain you, songs could tell nothing like you. Tutti mi vorrebbero chiedere come l'ho fatto. L'ho fatto troppo fatto, strafatto di ogni droga medica. Un po' di guida e un po' di Buddha. Un po' di culo e un po' di studio. Vedi il testo è composto con versi sparsi, ma tutti hanno un senso. Alla fine come il costo lo chiedi al commesso. Non esci senza pagare, quindi questa è l'ultima canzone che ti do gratis. Vedi tutto ha un senso, prima o poi tutti devono pagare. Cerchi la sbattura, è sulla sua camicetta rosa. Cosa? Casa? Sposa? Forse, o forse gli parte il prossimo verso. Il prossimo verso, o forse gli parte il prossimo verso. Nessuna canzone, vedi, è imbattibile. L'unica vera tentazione per farla forte e grossa nel battere e andare in televisione con sta canzone, per dire che così sono gli italiani ormai ubriachi, persi e senza senso come questo verso. Un verso sparso al vento della dimenticanza. Mi sono imposto con sto live motivo di darti uno stile di vita data, ossia la vita come un verso perso è composto da parole come la vita tipo bla bla, o tipo dada, o tipo strada, come le parole della gente, tramandazione orale, tipo bla bla, tipo strada, anche questo è rap, anyway. Quando sento la parola rap, io ho in mente ormai Belle Bellen che viene e sviene davanti al ballerino che muore ballando sta canzone perché qualcuno glielo impone. Organizzazione per la crocefissione dello sleale. Organizzazione per la crocefissione dello sleale. Bene, abbiamo citato un morto a caso e anche questo è dada, ma cos'è veramente dada? Ecco che ve lo racconterò con il prossimo verso. In questa canzone ti sarai accorto che ho nominato gente famosa tipo Fitti, Cetti, e tutto il CD è pieno di gente famosa. Ma che rispetto al suono, suona meno, quindi chi fa musica non è importante. È solo che il digitale terrestre non tira più, non ti tira più, non ti può mangiare con dentro altri di loro. Sarebbe una matriosca e a te non ti tira più. A noi non ci mangia perché sarebbe una matriosca e a te non ti tira più. Non ti tira più, e ce l'ho duro come Belzebub. Questa canzone se fa per ridere, per parlare più del meno, come lo zapping, il bla bla o il bunga bunga. Ma non l'ho scritta per piacere, la sto scrivendo col sedere, per poterti dimostrare che so parlare di cagate più forte. E il messaggio più assomiglia alla tele, parole a imbrogliate, un bla bla bla di stronzate, come le parole parlate, compreso da me, non sono né più né meno di un bla bla bla confuso tra la gente. Questo è rap, parla di storie della gente, parla del mio presente, di me, parla del mio presente, è senso dentro al bla bla bla della gente, dentro al bla bla bla dei vostri teleschermi. Questo è rap. Mi sono imposto questo leitmotiv di darti uno stile di vita data, ossia la vita come un verso perso e composto da parole come la vita tipo bla bla, tipo data, un verso perso. Mentre io c'ho paura che mi entrino i ladri in casa a rubarmi la rima nuova, ladri tossici criminali, ergastolani vaffanculo, questa è casa nuova, non è cosa nostra, questo è casa nuova, ridateci la nostra roba dopo la rapina, ridateci la nostra roba, la nostra roba, lasciatela sotto casa, ridateci la nostra roba, nostra roba, nostra roba, che il diavolo vi rincorra, la nostra roba. Vi manderò i ladri in casa perché avete condannato mio padre, non ce la farete con me, pure dire questa cosa che non c'entra un cazzo, pure questo è dada, un punto può essere dada, una cosa presa a caso, in casa mia, tipo il mio profumo, ridatemi casa mia, ridatemi la mia magia, ridatemi i miei soldi, ridatemi la mia magia, ridatemi il mio profumo, ridatemi la mia donna. Datemi casa, non sindrome inversa di datemi casa. Come qualunque cazzo di ragazzina di strada, come qualunque cazzo di ragazzina che fa bla bla, che me la dada, la dada, un citin dada, che me la dada.